con la bocca. Pane, burro, rock and roll, 7:30 del mattino. Venerdì 4 gennaio. Vengino, signori, vengino. Serviamo la colazione. Sara ci ama. È molto carino come messaggio. Non per come siamo noi, ma come si sente lei quando ci ascolta. Che cosa meravigliosa che ci hai scritto. Grazie, Sara. Marina, dopo quasi un giorno di travaglio, mette al mondo me nel 1975, poi crolla e dorme per 24 ore. Buon compleanno però, Rock, a me, Luna. Auguroni. Ci vediamo sabato per il calendario e la patente davvero rocker. Sabato prossimo, mi raccomando, a Firenze, alla Flog. Sabato questo a Milano, all'Atomic. Questo per rispondere anche a tutti quelli che continuano a chiedermi del calendario. Andiamo a salutare Max, che scarta la bici per andare al lavoro stamane a Milano perché è troppo rischioso, e allora si mette le ghette e il Walkman. Anch'io voglio le ghette. Voglio le ghette! Si fa i suoi bei 6 chilometri per andare al lavoro, però si tiene pane, burro, rock and roll, quindi dice me li canto tutti e 6 sti chilometri. Continue richieste del calendario, ragazzi, segnatevi le nostre serate e venite a raccattarveli. Mentre la musichetta di 8:30 diventa triste, io devo fare un saluto particolare a un'amica in difficoltà stamane. Mi si sono rotte le tubature del bagno. Sai che anche ieri avevamo ricevuto una segnalazione così da un altro amico, quindi sentiti in buona compagnia. Mi sto lavando con una pentola d'acqua ghiacciata. Faccio finta di essere una rockstar maledetta che vive solo di musica e amore. Che vita di merda, Ariele, pensaci tu, Dorothy. Guarda, Dorothy, non possiamo fare un granché e non salutarti, strombazzarti anche volentieri e farti ascoltare Clapton in compagnia di Derek and the Dominos. Questa è Leila. Buona giornata, restate con pane, burro e rock and roll, ve ne pentirete. Però dopo ve ne pentirete, quindi. Abbiamo davvero qui davanti agli occhi. Che cosa, Mario? Una notizia strepitosa, DJ Ariele. Le news, le novità, le... il momento giornalistico tabloid, sì, di pane, burro, rock and roll. Sì, sì, le, sì, ansie in ansia. L'ansia, esatto, tutto quello che gli altri rifiutano, noi recuperiamo e ne diamo notizia della serie, raschiamo insieme il fondo del barile. Mi permetta di lanciare la news di quest'oggi. Sigla! Bolzano, nudo alla fermata del bus, aspetto Dio. Completamente nudo alla fermata dell'autobus in attesa di un incontro con Dio. L'insolita presenza è stata notata a Bolzano tra l'imbarazzo generale dei tanti passeggeri che salivano e scendevano dal pullman della linea 5 in servizio alle 7:40 del mattino. Protagonista della storia, un immigrato di colore, l'autista del mezzo, senza dare nell'occhio, ha tempestivamente chiamato la centrale e sul posto sono arrivati i vigili urbani e la polizia. L'uomo è stato soccorso ed ha accettato il trattamento sanitario obbligatorio in una struttura sanitaria. Mentre l'associazione delle signore e signorine Guardone, sì, ha lasciato la seguente dichiarazione: accidenti, che occasione persa. Ci stava. Dalle 7:40 del mattino, alle 7:40. È uno dei nostri questo. Bravo. Sì. Voi che state aspettando Dio, ascoltate Rock FM che passa. Esatto, prima o poi arriva. Aspetto Dio. Ferma la mula, come si dice dalle mie parti. Succede, io ve l'ho detto, la neve è un po' metafora della vita, no? Stiamo parlando da una Milano imbiancata, che tra poco smetterà tra l'altro di essere imbiancata perché non sta continuando a nevicare e uno pensa, ah, che bello la neve, ah, romantico, tutto bianco. Sta, ecco, non posso nemmeno dire, collegamento speciale con la sciura Carla. Bentornata a Pane, Burro e Rock and Roll, Carla. Grazie. Buona giornata, eccola qua. Il saluto mio da parte di tutti i radioascoltatori. Grazie. Senti, cosa è successo stamattina? Allora ti conto su cosa è successo, te lo dico in bergamasco. Dimmelo in bergamasco, sì, assolutamente. Se dopo non lo capisci, pazienza. Fa niente. Sa che è successo? Allora. Allora. Ho spalato la nice. O spalal la nice. Ecco, saluti anche al marito intanto. Sì. Esatto. Tutta in cortile. Eh? Tutta in cortile. Ok, giusto. Poi, quando ho finito, ho pugiato la pala. La pala è scivolata. Sì. La mia sotto il pe. No. E mi ha fatto cadere. No, la Carla mi è caduta sul per colpa guarda della maledetta pala. 30 anni. Che cosa? Spale la lì, la prima volta che morto terra. Ma guarda, perché si scivola. Eh sì, la pala era bagnata dalla NIF. Ma quando ti sei svegliata stamattina hai visto che era tutto bianco? Allora, il primo pensiero cos'è stato? Maledizione, devo spalare? Sì, lo sapevo. Ecco. Allora, stamattina che io dormivo, sì, ho sentito mio marito che spalaia. Allora mi sono alzata a aiutarlo. Senti. E ho spalato la NIF. Di cimme in qua. Sì. A 6:20. Dalle 5:15 alle 6:20. E poi io faccio il patonfolo. Sono volato in terra. Ma no, ma no. Senti, hai picchiato il braccio. Sì. Però mi dici che riesci a muoverlo un po'. Sì, sì. Comunque c'è lì tuo marito. Sì, sì. Buono. Ma ti aiuta a spalare? Ti ha aiutato a spalare o no? Certo. Bene. Meno male. Peccato aver iniziato il 2008 così, Carla, però, mannaggia. Guarda. Però ho detto, è colpa della neve. Fortuna che i nostri numeri dell'otto non escono, i tuoi sì. Sì. Perché mi hanno detto che sei nel giro fortunato e siamo felici di questa cosa. E sai cosa ho già fatto? Cosa? Ti ho detto quanti soldi? No, no, beh, mi faccio i fattacci miei, Carla, anche perché sennò rosico a sapere quanti ne hai presi tu. Ne ho presi tanti. Tanti? Vedi che ti è già tornato il buon umore. E sono venuta anche stamattina a prenderli, Anche sei già andata da Carlo? Sono qui da Carlo a prendere i soldi. Ah, ecco lì, bravo, fateli dare tutti, Tagli piccoli. Sei da. Carla, buon 2008, l'anno della svolta. Ci sentiamo presto, E ci inventiamo qualcosa. Ciao. Ciao. E la domanda sorge spontanea: ma la neve è rock o no? Vabbè, intanto Dio salvi la regina, che fa sempre comodo, no? Sex Pistols, questa è la colazione di Pane, Burro e Rock and Roll, dove può succedere di tutto. Sex Pistols, God Save the Queen, No Future. Allora, venerdì, maledetto venerdì, da vivere assieme. 335 100 7777. Scusate, mi faccio prendere dai messaggi. C'è qualcuno che ha deciso, dopo aver messo su 9 kg in un mese tra cibo e bagordi vari, ha deciso sport, dieta ferrea e ha letto presto. Ma è rock darsi una regolata? Però fungo, non ci credo neanche se ti vedo, quindi guarda, non sto lì a farmi prendere da questa tua segnalazione. Abbiamo il litorale toscano nuvoloso, grazie Leon, monti lucchesi innevati, però fino a stamani pioveva, ci fa sapere Daniele da Pisa. In tanti ci date il bentornato, salutiamo anche Max, che ha una caleidoscopica sensazione di appartenenza al tutto. Oh, ognuno la vive come gli va sto venerdì, no? Abbiamo da lanciare un'altra delle numerose novità di questo 2008, l'anno della svolta. Già in queste due puntate vi abbiamo proposto dei nuovi interventi grazie all'ausilio del maestro Roberto Fricantoni, e la casistica è sempre la stessa: vivere da rockstar in speciale precariato. Bisogna, ragazzi, diciamocela, Frick non è mica Bono o Vox, ve ne eravate accorti? È un artista tanto quanto lui, ma ha meno soldi, ecco. E quindi bisogna arrotondare. Nel corso delle ultime due puntate abbiamo sentito l'intervento di Roberto Fricantoni, Babysitter. Ieri ci siamo connessi con la fermata Duomo di Milano, della metropolitana, dove ogni tanto Frick va a arrotondare anche lì. Abbiamo un nuovo intervento. Sì, perché Frick riesce a farsi assumere in un'azienda e ci terrà compagnia con gli interventi. E mi chiedete cosa fa? Ripara i computer. Sì. Perché adesso Frick non può riparare i computer? Solo perché non sa che cos'è un computer? È l'arte di arrangiarsi, amici. E allora, signor Antoni, benvenuto nell'azienda Duse Electronic Corporation. Che mansione sa svolgere? Ma non per essere immodesto, signor direttore, ma so fare un po' di tutto. Quindi lei è esperto di computer? Ma sono un tecnico professionista, un vero esperto, è il mio pane quotidiano. E allora è assunto, buon lavoro! La ringrazio, direttore, non se ne pentirà. Salve, sono Frick della Duse Electronic Corporation, pronto a risolvere ogni qualsivoglia problema tecnico abbia il suo personal computer, mi dica. Capisco. Ha provato ad inserire la spina? Grazie per aver chiamato e arrivederci. La casa di cura Eleonora Duse, la trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll vi invitano sabato 12 gennaio 2008 per la consegna delle patenti da vero rocker a Firenze, Auditorium Flog, Collina del Poggetto. E inoltre i Pay dell'Ariele dal vivo. Come se non bastasse, Roberto Fricantoni in persona. E in aggiunta la presentazione dello straordinario, gigantesco, sconvolgente calendario 2008, l'anno della svolta. Amici e amiche toscane, ve la meriterete la patente da vero rocker? Cosa fa Frick? Uno spot? Cosa fa? Cosa sta facendo? Cosa fa? Scaldo la mia Harley Davidson. E perché? Preparo il chiodo. Per essere un vero rocker? Esatto, metto gli stivali con la pelle di vero serpente. Venite come volete voi, sabato 12 gennaio vi aspettiamo alla Flog. Parcheggi l'Harley.